la mia. E ferme nuvole chiuderanno sipari, il viaggio si farà. Perché giusto così. E sarai con me, non ti dimentico. Se ritornerai sarò qui pronto a ricordarti che non saprò mai dimenticarti. Se ritornerai, se ritornerai sarò qui pronto a ricordarti che non saprò mai dimenticarti. Tiepido sole di primavera, corteccia stanca tradita dalla pioggia. Alberi resistono a questa pioggia che musica dal tempo ormai. La mia prigionia, il viaggio è utile. Tra vette e ruote avrò trascorso un giorno in più, lontano dai miei guai. Se ritornerai sarò qui pronto a ricordarti che non saprò mai dimenticarti. Se ritornerai, se ritornerai sarò qui pronto a ricordarti che non saprò mai dimenticarti. Tiepido sole di primavera, corteccia stanca ferita dalla pioggia. Grazie.